macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore. Espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato. Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little restaurant. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress. Be depresso. Mio amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore. Espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato. Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso. Mi amore. Mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore. Espresso macchiato, espresso macchiato.